approfondire. Adesso è aperta la discussione, quindi chi vuole intervenire può farlo da ora in poi. È aperta, abbiamo un ordine, possiamo intervenire a raffica su tutte le relazioni insieme. Io avrei alcune domande che riguardano relazioni diverse. Le pongo subito così a rosa. Dunque, intanto ho apprezzato molto la finezza interpretativa di questa ultima relazione di Leon Luther. Pongo soltanto una questione molto secca, una domanda. Di fronte a questioni così delicate, non stiamo andando verso la delega ad una qualche istanza giurisdizionale di una sorta di monopolio di interpretazione dei simboli? Il caso del crocifisso lo esemplificava molto bene. Etica costituzionale minima, hai detto tu alla fine, certamente, ma poi hai subito richiamato l'esigenza di ponderare, di contemperare questi due principi della libertà individuale di coscienza da un lato e quello del pluralismo dall'altro. Su questioni così delicate, quindi non vedo la possibilità di farlo al di fuori di un quadro di riferimento determinato appunto da una sorta di elite di tecnici di interpretazione dei simboli. Probabilmente di questo dobbiamo essere ben consapevoli, probabilmente è un punto che dobbiamo discutere. Analogamente, un passo in direzione dello stato giurisdizionale viene fuori quando, e mi riferisco alla relazione di Arena di stamane, quando cerchiamo di porre al centro di una riforma dell'amministrazione il ruolo dell'utenza, l'utente come sovrano. Giustamente è stato detto, non solo trasparenza, non basta guardare dentro, si tratta di esercitare un potere. Il problema è che naturalmente l'esercizio di potere significa, comporta inevitabilmente il nascere di conflitti tra l'utente, e quindi richiede un'istanza i cui margini di discrezionalità verranno progressivamente aumentando, di intervento decisionale su questi conflitti. Un altro punto qui mi sembra interessante, che andrebbe forse poi discusso in generale quando tocchiamo il problema della legittimità in regimi democratici, in società complesse. I vari poteri, e questo è un fenomeno che caratterizza marcatamente i sistemi politici contemporanei, stanno sempre più stanno sempre più sviluppando forme autonome di legittimazione. No, ecco, il problema posto da Arena ci poneva di fronte chiaramente questa Verwaltung und Legitimationszwang, questa amministrazione che deve legittimarsi di fronte all'utente che guarda, chiede trasparenza, interviene, eccetera. Ma questo vuol dire che anche le altre istituzioni e gli altri poteri si trovano esposti ad una logica di questo genere, e le legittimità dei vari poteri entrano in conflitto. Chi decide questo conflitto? Di nuovo è un ambito di discrezionalità per una Corte Costituzionale che viene espandendosi. Un'osservazione molto rapida sulla relazione di Pietro Costa, mi sembra molto interessante questa rivisitazione del filone solidaristico alla ricerca di un fondamento dei diritti sociali, quindi è certamente un passaggio centrale. Mi chiedo solo se non debba essere in qualche modo differenziato di più, nel senso che all'interno di questa tradizione che va dal Saint-Simon del catechismo degli industriali o del nuovo cristianesimo su, maturano in fondo anche le premesse per quello che sarà il corporativismo autoritario, soluzioni tecnocratiche autoritarie da terza via del XX secolo. C'è anche questo lì in incubazione. Naturalmente questo pone un problema. Un'ultima domanda, proprio soltanto domanda al professor Dreyer, la formula allora in tedesco. Herr Dreyer, ich bin mit Ihrer Form bei Gender, ich stimme bei Gender überein, auch über die Thematisierung der Demokratie in ihrer Beziehung zur Verfassung geben. Ne? Also Sie haben gesagt, Demokratie ist nicht das Produkt der Verfassungsgebung, sie prägt schon das Akt der Verfassungsgebung in sich. Ich glaube, und hier der Sinn meiner Frage, die über Ihre Beschränkungen hinausgehen will, Sie haben gesagt, ich spreche nur von Demokratieprinzip, aber das Verhältnis zwischen Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip und so weiter ist doch auch interessant. Hier liegt bei dieser Unterscheidung Produkt der Verfassungsgebung, Akt der Verfassungsgebung schon der Unterschied zum Rechtsstaatsprinzip. Ich glaube, der Rechtsstaat ist Produkt der Verfassungsgebung, aber der Rechtsstaat prägt nicht das Akt der Verfassungsgebung. Der Rechtsstaat ist nur Produkt der verfassungsgebenden Gewalt, das pouvoir constituant ist rechtsstaatlich nicht zu binden. Und dann, nur die pouvoir constituer sind rechtsstaatlich konstituiert, sind Rechtsstaat. Der Rechtsstaat entsteht nur mit der Konstitutionalisierung der Gewalten. Was heißt dieser fundamentale Unterschied nun für die grundlegende Frage der Verfassungsänderung in einem Verfassungsstaat, in einer rechtsstaatlich organisierten Demokratie? Hier ändert sich die Lage grundsätzlich im Vergleich zu einer Ursprungsszene, in der wir einfach ein pouvoir constituant haben, hinter dem pouvoir constituant ein Staat, der noch nicht demokratisch und noch nicht rechtsstaatlich organisiert ist. Also ich meine hier, um das deutlicher zu machen, die These von Martin Kriele, der Einführung in Staatslehre, innerhalb des Verfassungsstaates schläft eigentlich der pouvoir constituant. Wie können wir es aktivieren? Das pouvoir constituant innerhalb der Institutionen der rechtsstaatlich verfassten Demokratie aktivieren? Das ist, ich glaube, die wichtigste Frage im Hinblick auf unsere Diskussionen heute über Verfassungsgebung, verfassungsgebende Versammlung, Grenzen, Beschränkungen der Verfassungsrevision und so eine Frage, die insbesondere in Italien heute sehr aktuell ist. Danke. Beh, allora forse è meglio che appunto i relatori interpellati rispondano secondo loro, direi prima, Luther, se vuoi. Brevemente, in modo breve, non si sente. Molto breve. Se ho capito bene la domanda, se in qualche modo non è necessaria, non bisogna creare un'elite di tecnici di interpretazione dei simboli per risolvere questi problemi, oltre a questo, non siamo d'accordo, ma può risolvere queste cose. Secondo me, quando, secondo me, sono toccanti questioni costituzionali che coinvolgono i minimi etici della Costituzione, la cosa che Susanna può voltarsi indietro, un po' solleva convenzione di coscienza. Allora, secondo me poi però non ci vuole un'elite di tecnici. Io ho detto semplicemente non credo di far parte di un'elite quando cercato questa interpretazione laica, credo che ci possono arrivare anche gente che ragioni non da elitarista. Le interpretazioni sono rimandate alla società aperta degli interpreti. Adesso intanto la situazione in Germania come in Italia praticamente è quella che siamo costretti a negoziare, cioè in qualche modo la cultura laica deve venire, cominciamo un discorso con la cultura religiosa su punto e viceversa. Questo dovrebbe essere un tentativo per risolvere in modo molto democratico. Grazie. Arena? Sì, ringrazio Portinaro perché mi sembra che sia stato molto, molto importante. Io credo che la risposta alla prima domanda, perché la seconda prima domanda è in realtà una considerazione con la quale sono concordo, credo che la risposta dovrebbe stare in questo: l'istanza che tu chiami giurisdizionale per venire in conflitti tra utente che chiede l'amministrazione. In realtà potrebbe essere giudicata come queste autorità amministrative indipendenti, che anche nel nostro ordinamento si stanno affermando, mutuate dall'esperienza francese, ma anche dall'esperienza delle commissioni federali americane, e si potrebbe quindi riconoscere a queste autorità un ruolo quasi giurisdizionale, per così dire, che consisterebbe nel, da un lato, fissare le regole di funzionamento dei servizi. E qui c'è tutto il discorso riguardante le carte dei servizi pubblici, che in Italia in questi ultimi anni e mezzo, due anni si stanno affermando, dall'altro dirimere il conflitto e verificare il mantenimento degli standard proprio in base a queste carte. Quindi credo che non sia necessario immaginare per forza ricorso a una vera istanza giurisdizionale, perché comunque rimane fermo tutto il sistema della giustizia amministrativa e di tutela del cittadino nel confronto dell'esercizio del potere. Quindi dove c'è il binomio autorità libertà rimane fermo l'impianto tradizionale, che però evidentemente non è più necessario, dove c'è il binomio funzione interesse. Ecco, su questo secondo versante io vedrei l'autorità amministrativa indipendente con una risposta adeguata. Sulla seconda osservazione, anche io penso che la Corte Costituzionale dovrà trovare un ruolo a questo punto, anche su questo versante dei confronti tra le legittimazioni di diverse istituzioni. Mi sembra di capire però che tu non sia d'accordo con la mia un po' folle ipotesi di un'amministrazione autonoma. Cioè, quando io dico l'amministrazione è stata autonomizzata, mi sembra di capire che implicitamente accetti queste ipotesi come un'analisi. Sì, sì, no, il senso poi della mia domanda verrà più chiaro con la relazione di domani. Io poi dopo mi iscrivo però come domandante, domandiere. Sì, molto brevemente, io trovo tutto pertinente il suggerimento di citazione di Portinaro. La mia era stata forse una rimozione, un po' un shaon o un glissare sul punto fascismo per motivi di tempo. Non c'è dubbio che l'ideologia della terza via, che comincia a delinearsi sul tema di vari solidarismi, trova nel fascista una implementazione fortissima. Continuamente i quadrini ci ripetono, ci presentano se stessi come gli autori di una triunfante terza via, bravo, scritto a mano telegraficamente, che quindi vorrebbe riflettere da vicino sulla specificità dell'immaginario ideologico del regime fascista. Dico, telegraficamente mi sembra che si possa tentare una raccolta di differenziazione su questa base. Innanzitutto, la terza via del fascismo si presenta come un fortissimo panciato statalista, molto più forte che non federalista, non dico francese, dove lo Stato ha una importante violenza secondaria rispetto al privato della società, ma anche alla pressione del stagnante, per la differenza di nome che ha introdotto. Quindi una forte presenza dell'autore universo e poi, elemento forse ancora più specifico, un divorzio formalizzato esplicitamente, che è proprio c'è, ad esempio, fra l'ambito delle libertà politiche consegnate alla finta democrazia, alla falsa alternativa fondata sui cittadini italiani, e invece il mantenimento, anzi il rafforzamento della funzione provvidenziale e previdenziale dello Stato. Grazie, Sie haben die drei Ebenen, die es, glaube ich, gibt, sehr genau bezeichnet. Die fundamentale Ebene der Verfassungsgebung, die Ebene der Verfassung Änderung durch den Verfassungsänder der Gesetzgeber, der sich aber an die Verfassung halten muss und darüber der einfache Gesetzgeber. Die These von Kriele trifft, glaube ich, richtig auf die Situation des bundesdeutschen Grundgesetzes zu. Denn dort haben wir die sogenannte Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 2, wonach auch ein verfassungsändernder Gesetzgeber gewisse Grundsätze nicht berühren darf, Artikel 1 und 20. In Deutschland haben wir also die Möglichkeit, die Grundsätze in Artikel 1 und 20 juristisch nur durch eine Revolution abzuschaffen. Wir können kein normatives Band knüpfen. Das ist aber eine Sondersituation im Vergleich zu den meisten anderen Verfassungsstaaten, die die Möglichkeit kennen, eine Totalrevision einzuleiten, eine Totalrevision oder eine vollständige Neu- und Umgestaltung. Dafür sind zwar wieder formale Voraussetzungen nötig, bestimmte Mehrheiten, Einberufung einer neuen Nationalversammlung, breite Mehrheiten für Volksabstimmung, aber es ist denkbar, dass solange diese formalen demokratischen Vorkehrungen eingehalten sind, das Ergebnis dieses verfassungsgebenden Aktes eine völlig neue Verfassung ist, die nach aller Erfahrung die Menschenrechte nicht abschaffen wird, die nach aller Erfahrung auch rechtsstaatliche Grundsätze nicht beseitigen wird, die aber Rechtsstaatsprinzipien, die in der jetzigen Verfassung noch als sakrosankt gelten, natürlich abschaffen könnte. Warum nicht unter dem Gesichtspunkt eines neuen verfassungsgebenden Aktes, warum nicht weitgehende Beschränkungen des Rückwirkungsverbotes? Wir hätten manche Probleme in Deutschland nach der Wiedervereinigung besser, leichter lösen können, wenn wir offen ein das Rückwirkungsverbot offen geändert hätten. Dann könnten wir nämlich die Mauer schützen, ohne Skrupel verurteilen. Warum muss man gewisse rechtsstaatliche Skrupel haben, wenn Mauer schützen verurteilt werden? Ich will das nur als Beispiel nennen, dass die Nichtbindung an rechtsstaatliche Grundsätze nichts Furchteinflößendes hat. Das bedeutet nicht, dass man damit gewissermaßen ein tyrannisches System schafft. Man ist nur frei in der Neugestaltung. Und man müsste ja auch darüber nachdenken können, ob man nicht durch den verfassungsgebenden Akt ein System etablieren kann, das nicht der Idee sozialer Grundrechte folgt, sondern das der Idee von Hayek folgt. Das darf ja nicht verfassungsrechtlich den Verfassungsgeber wählen. Das kann falsch und politisch irrig sein, wenn es dafür keine Mehrheiten gibt, gibt es. Aber verfassungsrechtlich das auszuschließen, sehe ich nicht ein. Ich sehe auch nicht ein, warum sich in Deutschland nicht eine verfassungsgebende Versammlung dafür aussprechen könnte, aus Deutschland einen Einheitsstaat zu machen. Wenn wir dafür 60% der Stimmen kriegen, bitteschön. Also ich wäre schlussendlich dafür, stärker nach Möglichkeiten zu suchen, so etwas zu aktivieren. In Deutschland ist die Lage, die Artikel 93 da im Grunde genommen zu einer Sackgasse. Wir dürfen nur Revolution machen, wenn wir uns vom Föderalismus befreien wollen. Grazie. C'è bellissimo. Sollevo dubbi o questioni senza avere risposte pronte, in particolare all'introduzione del professor La Schiera e alla relazione del Vigotti sul suo governo. Per quanto riguarda il grido di dolore per la mancanza di valori, ho dubbio che questi valori possano essere provati e fondati dalla domanda, dalla giurisprudenza, dal Presidente della Repubblica, sia in Italia e forse pure in Germania. I sociologi, io sono un adesso sociologo del diritto, hanno grosse difficoltà, grandi difficoltà a trovare valori comuni nella società contemporanea, attuale. In Italia, per non parlare dell'Italia, forse pure in Germania, probabilmente dopo l'unificazione della Germania. Bisogna dire che come carattere i tedeschi probabilmente hanno un senso, nonostante tutto, del valore, forse più profondo del nostro, un senso della morale, forse più integra per la nostra, è probabile che a loro riesca di costruire o di recepire dei valori, tra virgolette, imposti o creati, pensati e trovati sulla base di questa richiesta che condivido di etica minima per una società. Però ho i miei dubbi che questa sia una via praticabile. Allora, si è parlato anche poi in varie relazioni di diritti dell'uomo in parallelo, in combinazione con i Grundrechte, quindi con i diritti fondamentali che sarebbero la costituzione, scusate, dei diritti dell'uomo. Un appunto quasi ermeneutico, si può dire. Crediamo molto spesso, noi occidentali in particolare, di avere un consenso e una comprensione immediata di ciò che significa nel mondo i diritti dell'uomo. In realtà tanti sono i diritti dell'uomo, o meglio, anche sui più fondamentali diritti fondamentali, tra le varie culture di questo pianeta non c'è comprensione tra i diritti dell'uomo. Faccio alcuni esempi, stiamo parlando di qualcosa adesso per brevità. Non è una chiave quella dei diritti dell'uomo che apre tutte le porte per i problemi che stiamo trattando. Per di più, filosofi e sociologi del diritto, eppure esponenti della cultura femminista, hanno individuato questo paradosso, che i diritti dell'uomo non sono portato di una concezione del diritto che sicuramente, a mio avviso, non è adeguata alla società moderna, e sono un portato di una filosofia, di un'antropologia dell'individuo che non, probabilmente, credo, non è più adeguata alla situazione attuale. L'antropologia era quella che rispecchiava la figura dell'uomo occidentale, borghese, kantiano, del cittadino proprietario, oltre che di se stesso, anche delle proprie cose, quindi indipendente, autonomo, emancipato. Questa è un'antropologia che non funziona più. Perché non ci troviamo più, non ci confrontiamo più solo con un soggetto di questo genere, in una prospettiva poi di società globale, di società mondiale. Credo che il professor ne ha parlato. Bisogna forse incominciare a meditare cosa la globalizzazione della società, non solo dal punto di vista del sistema delle comunicazioni, del sistema dell'economia, sta portando, ad esempio, rispetto al problema dell'immigrazione, che è stato toccato anche dal professor Luther, possa modificare, possa implicare il problema, rispetto al problema appunto dell'antropologia e del catalogo dei diritti dell'uomo. Il catalogo dei diritti dell'uomo può essere un posto di campagna. L'amplificazione, l'estensione di questo catalogo può essere, può aggravare semplicemente, molto probabilmente, una crisi di realizzazione dei diritti sociali o di diritti o di realizzazione dei diritti dell'uomo stesso. Per un problema di passo di sperreppico, si può dire, di ridondanza giuridica nel corpo. Questo ne hanno parlato anche Resta, Cassandra e altri. E il problema, l'etichetta forse principale a cui il problema a cui io ordinatamente sto accennando, racchiudere i problemi a cui io sto accennando, è forse quello dell'omogeneità. Nel periodo di Weimar c'era chi si chiedeva, mente, forse anche Heller, come è possibile l'omogeneità nella società di allora. Forse non è più adeguata questa domanda. Forse bisogna porre un'altra domanda, se noi non dobbiamo ormai convivere con una disomogeneità sociale, e questo porta naturalmente poi problemi grossi al, alla soluzione dei problemi, delle questioni relative ai diritti dell'uomo e così via. Una perplessità per Gozzi è questa, che criticando la concezione nazionalistica, nazionale, comunitaria della cittadinanza tedesca, egli ripropone una soluzione habermasiana che rilascia anche per una soluzione che da una parte è una, di trovare per una comunità politica moderna dei valori comuni. Adesso non so se è il caso di parlare in modo di comunità, perché se si critica, se si toglie la crisi della sovranità dello Stato nazionale, eccetera, eccetera, poi si ripropone esattamente un concetto come quello di comunità e comunità politica, che invece su molti di questi concetti eticamente pesanti si fondano. L'altra perplessità è questa di proporre l'interfaccia sul patriottismo. Ma se nei 7 o quanti milioni di immigrati che ci sono in Germania, nel 500.000 di immigrati di religione e cultura musulmana, noi proponiamo uno scambio Lebensstil contro mondo della vita integro contro accettazione dei nostri valori costituzionali, loro sicuramente possono dire: ma noi non vediamo differenza tra mondo della vita e mondo politico, noi non possiamo accettare questi valori perché il nostro mondo della vita è retto da un sistema di valori che è insieme religioso, punto primo, etico, politico, culturale. Cioè il mondo della vita è un mondo culturale. Da noi, nella nostra antropologia, nella nostra divisione della scienza, forse esiste questa divisione dei parametri della vita privata, pubblica, privata. In altre culture non esiste questa differenza, e su con queste cose dobbiamo confrontarci anche in tema di fondazione e interpretazione dei diritti naturali. No, rispondo nel senso che ne approfitto per fare la domanda che la domanda. Rispondo perché sì, così faccio anche per la dichiarazione che volevo fare. Perché sono mangio le sue In realtà io devo dire che sono combattuto fra il grande interesse che ho avuto per tutti i lavori di oggi, per tutti gli interventi, e il fatto che forse sono anche stanco, ma mi pare non capire niente. Perso la sintesi, come dicevano. Sto perdendo la sintesi, ma però su temi grossi che mi appassionano molto. Io condivido quasi tutto quello che ha detto lei, se ho capito, insomma. Però vado ancora più in là, insomma, perché non è un problema di diritti umani che non ci mettono e non ci tengono sullo stesso piano con altre culture. È il problema dei diritti. Definitiva, eterna, per risolvere i problemi della comunità. Quindi, se ci mettiamo su quel piano lì, allora dobbiamo interrogarci su altri problemi. Se rimaniamo invece nell'ambito di una cultura che fa del diritto la sua chiave, io dico una delle possibili chiavi, cioè con la consapevolezza che quella chiave sono una delle possibili, per risolvere i problemi, allora mi sembra abbastanza naturale che dobbiamo teoricamente usare questa chiave, esaminarla nella sua determinazione, appunto, storica, che inevitabilmente porta a queste cose che stiamo parlando oggi, cioè i diritti dell'uomo, individuali, sociali, eccetera, perché è su, sono gente da fare. Allora lo utilizziamo davvero come fondo di discorso, ed è possibile farlo, secondo me è doveroso farlo. Oppure rimaniamo in questo ambito, invece, che abbiamo capito cosa sta succedendo. Eventualmente esprimendo più che possiamo, più volte che possiamo, ripetendoci continuamente, che sappiamo che potrebbe anche non essere. Cioè che sappiamo che tutto questo è frutto del nostro essere uomini storici, cioè occidentali. Io sinceramente non mi fermerei a Kant, però allora adesso vado un momento su questa linea. Cioè non mi fermerei a Kant per dire che i nostri diritti, eventualmente anche quelli individuali, sono frutto del nuovo borghese. Cioè io mi sentirei molto indietro, ecco. Quindi il borghese lo c'è anche via. E direi che certo c'è questo benedetto marchio che è quello del crocifisso, secondo me. Cioè è il marchio del crocifisso. Io sono convinto che la cultura politica che noi conosciamo, di cui stiamo parlando, che ha questa marcata conformazione giuridica, è stata possibile storicamente solo all'interno di un evento storico straordinario, quale è stato quello della cristianizzazione. Voglio parlare di Cristo di croce e neanche del cristianesimo. Parlo della cristianizzazione. E quindi la chiudo lì. Ma la chiudo lì per dire che cosa? La chiudo lì per dire che in realtà però, e viene la mia domanda, di politica si tratta. Cioè questi diritti, il diritto stesso, il suo esito nei diritti individuali, dell'uomo, sociali, cosmopolitici, comunque a mio avviso si iscrivono dentro in un processo che è il processo della politica. Della politica che anche io considero un fenomeno evidentemente occidentale, non un fenomeno eterno e universale. Quindi considero un fenomeno storico. Ma la politica, e qui appunto è la sintesi che ho perso, quando è stata inventata, secondo me, più che nell'antica Grecia, appunto nel Medioevo europeo, la politica è una cosa dura. Cioè questa politica è davvero la necessità di trovare degli strumenti contro gli uomini isolati che vanno ognuno per la sua strada, che non riescono a stare insieme. La politica è il grande nemico che si trova, nel fondo si legge questo, contro il conflitto imperante, contro l'impossibilità di risolvere i conflitti per via regolare. La politica è il cerchio di pace, è il grido di pace che per secoli e che c'è per tutta l'Europa. La politica per questo ha avuto bisogno del diritto e per questo nel diritto ha trovato forme progressivamente più efficaci e anche forse più, come dire, appagabili di convivenza. Ma ora noi, dai discorsi che sono stati fatti oggi, abbiamo, io da questi discorsi ho ricevuto un'impressione molto netta, ma nello stesso tempo un po' confusa, cioè né forte ma confusa. Noi parliamo di Costituzione, del destino della Costituzione, del rapporto tra democrazia e Costituzione. Di solito però in tutte le relazioni che abbiamo sentito oggi abbiamo approfondito quasi esclusivamente la parte, come si chiama, generale, insomma, no? Delle carte costituzionali, quelle che noi conosciamo come Costituzione. Abbiamo completamente, quasi del tutto, lasciato da parte la considerazione della parte invece, come si chiama? Organizzativa della Costituzione. Sì, lo so, però io adesso parlo di quello che c'è oggi, no? Perché mi sembra che sia per me questo emblematico. È emblematico nel senso che da questa politica, che inizialmente secondo me è sorta come un rimedio contro le angosce degli uomini, individui, no? Stiamo tornando a una concezione della Costituzione che va a sottolineare, recuperare, privilegiare, eccetera, eccetera, questo uomo nella sua coscienzialità più sfrenata, che è di nuovo una coscienzialità isolata, solitaria, angosciosa proprio, melancolica, anche politica in questo senso qui. Ha senso quello che sto dicendo, quello? Cioè, voglio dire, va bene che è possibile immaginare un futuro costituzionale che consiste nel fatto di riuscire a ridare spazio a questi mondi individuali che sono stati, secondo, sto un po' drammatizzando, insomma, una cosa, sono stati secondo me proprio invece ciò da cui la politica ci ha allontanato per raggiungere quel minimo di istituzionalità, che sta sulla, alla base di una possibile convivenza pacifica. Questo è quello che mi preoccupa davvero moltissimo. Cioè, salta tutto, salta la divisione dei poteri, salta la distinzione tra cittadino e straniero, salta la possibilità di, o il dovere, di definire doveri comuni in una comunità, salta tutto in nome di una riappropriazione integrale della persona, del mondo individuale. E io l'ho capita così, insomma. Non dico mica che a me piacerebbe così, così. Ho paura che la politica allora è veramente finita e sarebbe un gran bene. Più di una volta, quando ero più giovane, ho partecipato a riunioni in cui si centrava la fine della politica. Io nego che lo Stato possa essere mite. Nego che il diritto possa essere mite nella concezione di cui sto parlando io. Nego anche che il dubbio possa far parte di una obbligazione politica intesa nella tradizione occidentale in cui noi siamo inseriti. Ciò nonostante auspico che si possa uscire da questa tradizione verso soluzioni che non hanno più a che fare con le durezze della politica e del centro. Ma noi, trattando di queste cose siamo consapevoli? Molto grande. E quindi, allora invece adesso volevo dire io qualcosa a Beghisi, che a mia volta colgo l'occasione per fare una domanda incrociando con la Luther, ma poi prima appunto sempre il domino la questione che pone Beghisi è una questione molto importante. Io per le conclusioni della relazione che ho già stabilito, l'ho scritta più volte, credo che anche a seguito di queste discussioni la riprenderò e la rielaborerò. Ci sono appunto due livelli di Habermas di assimilazione. Io non vorrei limitarmi ad Habermas perché la questione ha un respiro molto più ampio. Habermas, secondo me, non si misura adeguatamente con la storia istituzionale, non distingue adeguatamente lo stato di diritto e democrazia. Ma si diceva che sono gli appunti che fanno, che gli vengono fatti appunto dalla parte più strettamente giuridica. Vorrei semplicemente dire questo: quando intendevo dire adesione ai principi costituzionali, volevo indicare qualcosa di molto preciso. Ogni costituzione, come ci mostrava anche il Greco prima, ha due parti fondamentali: una è quella dei principi, e l'altra invece quella che riguarda la forma di Stato, come ci ha insegnato Keynes, e credo che questa distinzione sia ancora da tenere ferma. Che cosa si chiede a questi soggetti stranieri che entrano in un determinato ordinamento giuridico? Sostanzialmente l'adesione alla seconda parte, cioè quelle che sono le regole procedurali, dove invece si tratta dei principi sostanziali. Ecco, qui invece credo che si debba praticare, avere attenzione di una politica del diritto che tenga conto delle diverse identità culturali. Facevo l'esempio del diritto internazionale privato tedesco, che tiene conto, per esempio, nel caso del diritto di famiglia, applica il caso che viene citato, è quello di una, aspettiamo una casistica dettagliatissima, di una donna musulmana che aveva sposato un tedesco convertito all'Islam e che appunto, attraverso la fondazione del vincolo matrimoniale, aveva accettato la promessa di matrimonio di risarcimento in caso di divisione, in caso di divorzio. Il legislatore, il giudice tedesco, in caso di divorzio, ha accettato il divorzio secondo le regole dell'ordinamento giuridico vigente, ma ha praticato per il risarcimento i principi della tradizione islamica. È un esempio di contaminazione di cultura che è molto interessante. Al contrario, invece, ha respinto un caso di due thailandesi che, secondo la costituzione thailandese, la casistica sterminata. Io non sapevo che in Thailandia in realtà il divorzio si ottiene semplicemente non andando avanti al tribunale, ma attraverso il reciproco accordo del coniuge. Il giudice tedesco ha respinto invece questo costume questo costume ritenendolo contrario all'ordinamento tedesco, giuridico tedesco. Il diritto, la dottrina del diritto internazionale tedesco si oppone a questa giurisprudenza, dicendo in realtà non tiene conto della identità culturale. Ecco l'esempio, cioè, quindi l'accettazione di quelle che sono le regole procedurali, ma una differenziazione nell'interpretazione dei principi sostanziali. All'opposto di altro. Ma adesso dico questo, poi Agnos si può leggere in diversi modi. Adesso, allora qui tocca un'altra questione. Qual è la questione? Che è tornata fuori, emersa da diverse anche schiere, eccetera. Che cosa sono questi diritti dell'uomo? Io sono d'accordo che il catalogo dall'età del giusnaturalismo non trova non c'è nessuno che abbia presentato lo stesso carattere, perché il concetto di diritto naturale, come ovvio, dal punto di vista ermeneutico, è estremamente aperto. Allora, guardiamo le cose da un punto di vista della storia costituzionale. C'è stato chiaramente un passaggio dal giusnaturalismo al positivismo giuridico, ad un'odierna fondazione costituzionale di diritti, una progressiva reinterpretazione, una diversa interpretazione, giusnaturalismo, costituzionalismo giuridico, costituzionalismo. E tuttavia si assiste a questa tensione costante, diritto naturale e diritto positivo, ancora oggi. Al tempo stesso si assiste ad una, vorrei dire, regionalizzazione e tematizzazione dei diritti dell'uomo. Regionalizzazione perché? Perché se noi prendiamo la carta africana dei diritti dell'uomo si vede che è diversissima dalle carte nostre. Perché? Perché gli africani dicono accettiamo la dichiarazione dell'89, ma nel momento in cui dicono questo, è possibile, purché salvaguardino le tradizioni africane. Se noi leggiamo la Costituzione tunisina contemporanea, cioè la più avanzata del mondo arabo, si vede, ci riconosciamo, che sono tutti di fuori, da parte giuristi, quei pochi giuristi che sono formati nell'università francese. Sono colonizzati, però non so perché fanno la differenza, non sono totalmente colonizzati perché si riconoscono i diritti dell'89, della dichiarazione dell'89, però tempo e quindi in sostanza libertà di coscienza, eccetera, ma la religione ufficiale è l'Islam. E il presidente è garante del rispetto di questa e del primo articolo di questo diritto. Quindi regionalizzazione e tematizzazione, perché si assiste ad una accentuazione del pensiero a partire dal secondo dopoguerra di certi diritti, di certi diritti. Per esempio la carta del 66 riconosce praticamente quello sui diritti civili e politici, riconosce una serie di riconosce praticamente anche libertà di riunione, associazione, eccetera. Quella americana del 69 introduce il diritto della famiglia, il diritto del bambino, il diritto della cittadinanza, quindi una tematizzazione, regionalizzazione e tematizzazione. Non c'è una regola. Questo voglio dire. Allora, è certamente vero che questi principi sostanziali sono subordinati a delle interpretazioni culturali relative. Ecco perché dico accordo sulle regole procedurali e invece politica del diritto che salvaguarda le diverse comunità culturali nell'interpretazione dei principi sostanziali. Ed ecco allora, e qui adesso passo alla domanda, passo, cambio ruolo, divento interrogante rispetto a Luther, al quale chiedo, e questo per me è un tema, e quindi riprendo ciò che ho detto, questa etica minima è certamente una importante considerazione. Perché? Perché, e io sono pienamente d'accordo, in questo secolo noi abbiamo assistito a uno splendido dibattito che al posto posto che essere agli elitisti democratici, qual era il tema di contesa? Quelli dicevano che in sostanza la democrazia è solo una regola procedurale e che si diceva no, la democrazia è anche una regola sostanziale, è un punto fondamentale per la democrazia, decisivo, per cui non si pone la possibilità perché se in sostanza che una maggioranza possa violare i principi fondamentali, se lo fa non è più una democrazia. Allora, qual è questa etica minima e come può formarsi questa etica minima della democrazia? È il consenso per l'intersezione di Rawls, non lo so, forse Luther non intende questo, ma dice un'idea, cioè il fatto che questa etica minima in qualche modo si fondi su una stessa rappresentazione di società e su una stessa rappresentazione di persone, per tenere insieme le parti. Pluralità della cultura. Se non è così, che cos'è? E se si ritiene che questa etica minima debba esserci, come può formarsi in una società multiculturale? Brevissimamente, forse etica minima è un minimo etico, è più preciso, nel senso che ho cercato di individuare l'etico minimum, ho cercato di spiegare che secondo me se si osservano bene le costituzioni europee, la giustizia costituzionale nei vari paesi europei, di fronte a questo problema della società multiculturale, della società multiculturale, si trovano convergenze, ma convergenze soltanto nei principi massimi, cioè nei principi ultimi. Ora, forse non sono questi, forse sono altri, forse non esistono neppure, però mi sembra che potrebbero, se bisogna, potrebbero essere questi: i diritti della coscienza, con il massimo dell'individualismo, e i diritti dei gruppi, ossia con quello che noi chiamiamo il principio del pluralismo. Non possono esistere, ho cercato di scrivere questo in un altro seminario, non possono esistere diritti di coscienza senza da solo, senza un pluralismo. No, non ce la fanno. E viceversa, il pluralismo non può esistere se non vi sono anche diritti individuali, se i diritti della coscienza sono anche diritti che implicano la scelta di appartenenza o meno all'interno del gruppo e che in qualche modo non vengono completamente assorbiti neanche dentro, si trasformano in qualcosa. Questi secondo me sono i due principi fondamentali, credo su questo c'è un consenso effettivamente evidente, quindi io più modesto e un'operazione un po' truffaldina perché descrivo qualcosa che ovviamente poi mi piace anche. Perché c'è un consenso formale, perché tu non dici poco, quando parli del minimo etico e metti questo, libertà di coscienza, cioè il massimo di libertà individuale e il diritto dei gruppi, dici tutto. Certo. E questo è niente, perché è mira politica. No, perché no, ecco, questo voglio spiegare, perché secondo me nella libertà di coscienza, la libertà di coscienza stessa è anche alla base dell'agire politico, no? È anche alla base dell'agire politico. C'è ancora spazio per i politici. Dicono nulla su quale valore e quale portata hanno i diritti politici, se non quello che l'esercizio dei diritti politici non deve eliminare né l'uno né l'altro principio. Poi c'è un'ampia gamma, anzi nulla tolto, si può tranquillamente dire, come fa la dottrina tedesca, non so, con Marchese, che c'è addirittura un primato del legislatore nella concretizzazione dei diritti, ad esempio. Io su questo non mi sono assolutamente fermato, queste sono scelte culturali di ogni paese, se si chiedono per il legislatore o se guardano più verso la Corte Costituzionale o se non fanno anche meno nella Corte Costituzionale, cioè con il Presidente. Bene, abbiamo ancora due interventi, credo che chiudiamo, che ci sia qualche altra richiesta. Non ci sono problemi oggettivi di organizzazione del household. Arena e poi scelta. Guarda, io ero tentato di rinunciare con questo grande sollievo, però devo dire questa cosa molto rapidamente, proprio un flash, anche perché credo di stare contento di rostire. Credo che abbiamo dimenticato, io per primo naturalmente, abbiamo dimenticato un versante della questione cittadinanza, diritti dell'uomo, fondamento costituzionale, che è il versante dei doveri. Cioè, in altri termini, non possiamo dimenticare il fatto che quello che tiene insieme una società è anche il rispetto reciproco di una serie di doveri, non solo di diritti. Allora, in questo senso, mi riallaccio alla cosa che dicevo Umberto Allegretti, giustamente lui oggi nella sua relazione cantava il dato secondo il quale l'articolo 3 va vale insieme con l'articolo 2 della Costituzione. E secondo me c'è uno snodo fondamentale che andrebbe ripreso, poi avremo l'occasione di riparlarne Umberto, penso, insieme, anche privatamente, che è la parte dell'articolo 2 dove si dice che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Allora forse lo snodo fra diritti dell'uomo e diritti dei cittadini sta lì, nel senso che se la Repubblica richiede l'adeguamento di questi doveri inderogabili, deve mettere le persone, compresi i non cittadini, in condizione di poter adempiere questi doveri. E allora lì si arriva al secondo comma dell'articolo 3, dove si dice che il compito di alcuni rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita del paese. Cioè, probabilmente c'è una parte del discorso, che adesso è chiaramente troppo tardi per che si possa affrontare, che riguarda i doveri che l'essere cittadino comporta. E detto in una battuta, il cittadino italiano che va del sistema, un cittadino che va del sistema di mettere le tasse, non va mai a votare, paga in nero i propri dipendenti, insomma, proprio il cittadino italiano da non prendere ad esempio, il lavoratore immigrato che lavora regolarmente, paga le tasse, magari si chiude al sindacato, eccetera, eccetera, quindi adempie i doveri interrogati, eccetera, chi dei due è veramente cittadino? Cioè, secondo me, bisognerebbe anche sottoporre il discorso della cittadinanza a quello che si dovrebbe chiamare il test del buon samaritano. Cioè, chi era veramente il prossimo per quello lì? Il fariseo che passava senza fermarsi, quindi era cittadino a pieno titolo, o quello che non era cittadino a pieno titolo e si è fermato? Insomma, secondo me, fra il cittadino italiano, appunto, e l'immigrato che invece adempie i doveri derogati, è più cittadino secondo del primo, nella sostanza. Perché alla fine poi la Costituzione ci dice che sì, riconosce e garantisce i diritti, ma pretende anche l'adempimento dei doveri. Quindi con questa dimensione, secondo me, va ricordata dentro. E quindi probabilmente il titolo era diritti, doveri, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio un flash, ma... Grazie, io... Era rivolta a me questa... No, era proprio puntata a lì, riprendendo l'artista sottolineatore di Umberto Raghetti, perché aveva fatto bene a ricordarci l'articolo 2. No, io più che su questo, volevo, sulla questione della croce, più che su questo sono niente da aggiungere. No, che sia la croce della democrazia, nel senso più vasta del suo, è quella che ha detto... Luther, come... Che cioè ci sia questa dipendenza eccessiva dalla direzione occidentale dei diritti dell'uomo, mi pare che sia dubbio. Questa è una grande croce, perché soluzione per gli altri, ci sono quei tentativi, le cose che hanno detto loro, molto bene. Ecco, forse però non dobbiamo avere un senso così drammatico della questione da pensare che tutti questi diritti dell'uomo siano non condivisi o non condivisibili dalla varietà delle culture. Io credo che alcuni minimi fra i minimi ci sono acquisiti comunemente, il diritto per esempio a non avere la riduzione di schiavitù, la tortura, il diritto contro, a non avere il trattamento condizioni crudeli, lasciando stare il fatto che poi ne siano nelle legislazioni degli stati, però è un consenso che si fa strada su queste. Su queste cose mi pare che ci sia, quindi poi sono gli elementi base della politica che dico io. Sono i più fondamentali. Ah, beh, allora stiamo attenti dove stiamo andando, perché quelle robe che dici tu sono esattamente l'eliminazione della violenza di tipo. Probabilmente sono questi. Vediamoci, anche in quel campo poi ci sono alcune difficoltà, perché le mutilazioni sessuali della donna africana è Sì, d'accordo, ma insomma, ecco, voglio dire, non ingrandiamo tanto il problema, che tutta la tema. Questa era la prima osservazione, e poi una è troppo veloce, chiaramente, insomma, tanto per dimensionare un pochino il nostro dramma anche di oggi. La seconda cosa è in corso, attraverso le grandi conferenze dell'ONU di questi ultimi anni, che sono parole, se volete, soltanto parole, insomma, ci sono, però sono elaborazioni di concetti. È in corso un tentativo di parlarsi di più di prima tra le civiltà, ecco, per esempio Copenaghen, Pechino, Rio, in ordine allora, Rio, Cairo, Copenaghen e Pechino, anche Vienna. Copenaghen e Pechino, sono queste cinque grandi cose, poi le altre cose che ha detto lui, la carta del bambino, queste cose settoriali, sono dei luoghi dove si sta tentando di, da un lato, di dare nuove implicazioni, dall'altro di trovare una serie di nuove mediazioni. Per esempio, sono molto interessanti le argomentazioni, le elaborazioni di Copenaghen, cioè sull'etichetta diritto allo sviluppo, no? Queste cose qui, dove si vede che le cose per cui è possibile trovare un'intesa tra quella parte di buoni propositi che c'è nell'Occidente e il bisogno che c'è nei popoli del terzo mondo, su alcune politiche, ancora una volta, questa volta mondiale, però, alcune politiche, le politiche che eliminano una serie di ostacoli, questa volta mondiali, alle donne, ai minori, alle popolazioni rurali, agli abitanti delle zone climaticamente più sfavorite. L'Africa per esempio rappresenta un continente a sé anche per le politiche dei diritti da fare. Queste elaborazioni ci sono, danno loro qualche cosa, per ora raccomandazioni sottoscritte dai governi, non dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dai governi nel caso di Copenaghen, quindi è interessante. Certo, non è un patto internazionale perché non ci sono obblighi assunti, agli obblighi generalizzati, però insomma è la prima elaborazione, non so se siamo nella fase in cui si era nel Settecento di fronte ai primi tentativi di mettere a punto. E allora forse ecco, insomma, dobbiamo vederli in una dinamica. In questo colloquio mondiale forse potrà nascere una convergenza maggiore tra diversi modi di approccio ai diritti. Quelli di alcuni paesi del terzo mondo sono estremamente più concreti dei nostri, non c'è dubbio, perché il problema è se le politiche di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario distruggono le basi di alimentazione delle popolazioni rurali, la possibilità della donna di evolvere, e invece la ricacciano in casa e insieme la fanno lavorare in una vita impossibile per mantenere i figli, dove l'uomo poi non c'è, perché anche questo sulla base di culture l'uomo non ha doveri nei confronti della famiglia. Tutte queste cose già prima di tutto parlate. No, ma scusa, posso fare una cosa brevissima solo, no? Cioè, perché il problema non è solo di parlare, il problema è che grazie a Dio, oggi, noi ogni giorno, abbiamo, a sera, stasera non ci vediamo le televisioni, abbiamo davanti agli occhi la fenomenologia della miseria dell'intero mondo, cosa che 10 anni fa non avevamo davanti agli occhi, cioè il problema della sensibilità a questi bisogni, no? Cresce in maniera spontanea rispetto alla appunto visibilità di questi che la pluralità dei drammi ha, insomma. Quindi questo per me è estremamente importante, cioè il discorso noi conosciamo, sappiamo, ogni giorno ci imbattiamo in problemi che sono sempre più larghi, sempre più diffusi. Nel breve tempo può dar luogo a un sentimento per fine. Certo, ma in realtà provoca questa roba di cultura del medio tempo. E omogeneizzazione. Sì. Sono l'ultimo e sarò molto breve dicendo in primo luogo che le cose molto interessanti che sarebbero da discutere con il professor Calaventi lo possiamo fare domani perché si riallaccia direttamente alla giuridicità dei diritti fondamentali in Italia e in Germania e forse continuiamo questo discorso. Aber ich möchte zwei Punkte im Anschluss an Herrn Weyers Vortrag sagen. Das eine kurz anknüpfend an die Auseinandersetzung zwischen Herrn Fortenauer und Herrn Dreyer über die Frage der demokratischen vorstaatlichen Existenz, unstaatlichen Existenz des Demokratieprinzips im Gegensatz zu anderen Konstitutionsrechten. Ich bin insofern nicht ganz einverstanden, weil gerade im Sinn der deutschen Ungarn, auch der französischen Revolutionären, Staatsrechtliche Verfassungsgebung, die Funktion der Verfassungsgebung ja gerade in der Garantie der vorstaatlichen Freiheit. Das heißt, wenn wir von Menschenrechten ausgehen, wenn wir davon ausgehen, dass eine vorstaatliche Freiheit konstitutionalisiert werden soll, dann ist das Freiheitsprinzip genauso vorstaatlich und dann auch staatlich wie das Demokratieprinzip. Und ich möchte daraus ableiten, das scheint mir sehr wichtig im Zusammenhang mit den Fragen nach der Wiedererweckung der verfassungsgebenden Gewalt. Eine gewisse Relativierung des Gedankens, was kann Verfassung überhaupt sein? Es gibt die Extremsituation des Kersenlag von 1789 und es gibt die Extremsituation der absoluten Stunde Null. Aber wo ist es? Normalerweise lebt Verfassung in einem sozialen Kontext, muss in diesem sozialen Kontext geschaffen werden und ist nichts anderes als ein allerdings besonders für den Juristen unheimlicher, weil es von Rechtsvorschriften losgelöster Versuch, Fragen rechtlich zu bewältigen, aufgrund eines Status quo, die auch innerhalb der Verfassung bewältigt werden müssen. Insofern ist der Verfassungsbegriff eine Abstraktion, der eine Funktion, eine heuristische Funktion im Interesse des Schutzes der Verfassung, Verfassungsgerichtsbarkeit und so weiter, der auch eine idealtypische Funktion haben kann in spezifischen historischen Situationen, aber der im Grunde nichts anderes ist als eine Stufe im Rechtsproduktions- und Reproduktionsprozess, wie wir vorhin sagen. Entschuldigen Sie, dass ich das so kurz gesagt habe, aber ich wollte darauf noch hinweisen. Und ich möchte ebenfalls nur andeuten, einen zweiten Punkt, wo Herr Dreyer meiner Ansicht nach eine Bombe hier in den Saal geworfen hat und Sie soll wenigstens nicht ganz als Bildgänger liegen bleiben. Denn wenn Sie sagen, dass nach einer in der Tat sehr ernstzunehmenden Auffassung das Mehrheitswahlsystem mit dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit und mit den Wahlrechtsprinzipien der italienischen Verfassung, mit der in der deutschen entsprechen, und wo das Wahlsystem ebenso wenig geregelt ist wie im Grundgesetz, widersprechen. Wenn Sie das sagen, dann ist das gegenwärtige italienische Wahlrecht verfassungswidrig. Diese Konsequenz muss man sich jedenfalls mal deutlich machen. Und ja sicher, aber es ist gemischt in einer Weise, wie Sie Hans Meyer und Frau aus Dreyer kritisiert hat. Und ich meine, man muss diese Kritik jedenfalls ernst nehmen, genauso wie man umgekehrt hat. In Deutschland fragen muss, ob man es wirklich durchhalten kann angesichts von Eigenheiten des deutschen Arztes. Ma mi permetto finalmente un piccolo spunto alla relazione per me molto conoscente e interessante del professor Rozzi sulla problematica della doppia gesellschaft. Perché io penso, malgrado questa astrazione certo necessaria del concetto tradizionale di nazione, occorre oggi mettere l'accento sul fatto che questa società che si svolge con un'inomogeneità tremenda e con una pluralità enorme non fa altro che rispondere sulla condizione in sviluppo e nella quale siamo e che rende veramente oltre al vissuto il concetto di nazione nel senso vecchio, ma non nel senso che si possa rinunciare ora al concetto di popolo, ma che si deve vedere questo concetto in maniera più complessa. E questo vale, e perciò lo dico forse alla fine di questo giorno e questo Trentino, questo vale per un luogo come il Trentino che è una parte da sé nell'interno dell'Italia, e questo è normale per ogni tedesco, perché un tedesco appartiene al popolo tedesco ma al popolo del suo lato. E così abbiamo due livelli di popolo già in un'Europa delle regioni, e con questo ho dato lo spunto per il terzo novello. Siamo oggi nello sviluppo e penso che occorre pronunciare questo e insistere su di questo. Siamo nella genesi di un popolo europeo, e prendendo questi livelli non soltanto come livelli di una statalità in stato nascente, ma anche di una nazionalità in stato nascente, credo che così possiamo confrontarci con la problematica dei conflitti di quale il professor Rozzi ha parlato. E se questi concetti si riscontrano con inomogeneità esistenti, o si può e si deve dire che contro questi inomogeneità la società, lo Stato, la nazione, gli ordinamenti attuali hanno tutte altre possibilità di rispondere che altrettanto. Malgrado ogni crisi dello Stato sociale, malgrado ogni crisi di intervento, siamo in ordinamenti sociali che stanno in trasformazione, che stanno con possibilità di informazioni, e così io penso che i problemi di inomogeneità che sono problemi gravissimi, sono problemi che devono essere superati tramite un lavoro, che questo lavoro comincia con la coscienza del concetto di corpo.